E su queste meravigliose note apro la prossima intervista. Non prima però di avervi ricordato che siete all'ascolto di Radio Cooperativa con Gilles Facchinelli per questo nostro programma Rock Wave Live Io Mi Racconto. Live appunto perché o abbiamo ospiti in studio oppure anche ospiti in diretta telefonica, ma sempre direttamente qui dal vivo. Allora, giovedì scorso abbiamo avuto ospite il chitarrista, produttore e arrangiatore Marco Barusso, che il nostro ospite tra l'altro conosce, e che ci ha raccontato del suo progetto The Price. Ma anche questa sera parliamo con un chitarrista e di un progetto. Ho il piacere di dare il benvenuto a Rockwave Live Io Mi Racconto a uno dei due componenti dei Francisco, Fabrizio Naniz Barale. Ciao Fabrizio, ci sei? Ciao Gilles, ciao, buonasera a tutti, ciao, come stai? Bene, adesso ancora meglio che finalmente riesco a sentire una delle due voci dopo aver ascoltato questo splendido CD. Che veramente, veramente non è un falso complimento, ne abbiamo parlato un po' al telefono, ma è veramente un po' insolito e coraggioso, poi parleremo, direte anche voi perché è coraggioso. Però, certo. Fabrizio, prima di parlare un po' della musica, ho detto due componenti. Partiamo allora dalla base e presentiamo i due componenti, appunto Fabrizio Nane Barale, che è qui in diretta con noi, il chitarrista. E poi però c'è anche Fabio Mago Martino, speriamo sia all'ascolto, che lo salutiamo, piano e fisarmonica, quindi speriamo anche un giorno comunque di avervi qua in studio. Assolutamente. Siete piemontesi, no? Se non sbaglio, da dove esattamente? Esatto, entrambi piemontesi, non della stessa città, però siamo tutti e due piemontesi. Esattamente, ma da dove? Allora, io sono di Cuneo, mentre invece Fabio è di Acquiterme, che è provincia di Alessandria. Anche se Fabio, per motivi sentimentali, si è trasferito a vivere in Svizzera da qualche anno, ecco. Fabrizio, l'amore è amore. Assolutamente. Allora, entriamo subito nella vostra musica, Fabrizio, perché io spero veramente di riuscire in questa quasi 50 minuti di riuscire a far ascoltare tanta della vostra musica, perché è c'è una parte di cantata e anche una parte musicale. Comunque, il progetto quindi è dello scorso anno, il vostro progetto appunto dei Francisco, ma la sua base vera parte 10 anni fa, se non mi sbaglio, no? Poi racconteremo un po' la storia. Addirittura tra te e Fabio parte addirittura dal 1988. Allora, in realtà Fabio è membro fondatore di un gruppo di musica che si chiama Yo-Yo Mundi, che è un gruppo che negli anni ha fatto tanto, ecco, in Italia. Diciamo che era uno di quei gruppi che faceva parte dell'indie rock degli anni 90, uno di quei gruppi che hanno fatto un po' di cose, ecco, in quegli anni lì. Quindi Fabio è membro fondatore. Io sono entrato a suonare in quel gruppo lì nel 96. Quindi, diciamo che io e Fabio in realtà ci siamo conosciuti nel 96 e Francisco è nato, diciamo, una decina d'anni dopo. Mm-hmm. Cioè, non proprio sì. Francisco, però l'idea di fare qualcosa insieme è nata una decina di anni dopo, quindi attorno al 2006-2007. Poi, sì. Ovviamente, come tu sai, poi le cose hanno bisogno di incubazione. Un tempo, no? Certo. Perché poi, cioè, all'epoca poi c'erano comunque ancora tantissimi impegni, sia come Yo-Yo Mundi sia con progetti altri che ci vedevano coinvolti. Ad esempio, l'enorme fortuna di essere chitarrista di Ivano Fossati per 12 anni, quindi diciamo in tutto quel periodo lì per me era un po' difficile pensare a mettere ancora altre cose, cioè, in mezzo, no? Questa è una novità, perché non lo sapevo che hai suonato così tanto tempo con Ivano Fossati, col grandissimo Ivano Fossati, che tra l'altro poi io ho ricavato anche una frase da una canzone bellissima, ma ne parliamo dopo. Sì, va bene. Prosegui pure. No, Fabrizio. Niente, quindi appunto poi con noi, stando comunque tantissimo tempo insieme, suonando comunque tanto, condividendo viaggi, camera d'albergo, solite cose, no? Che poi comunque quando uno è tanto in giro ha tanto tempo libero, no? Allora con Fabio c'è una certa affinità che ci ha portato comunque negli anni a mettere dentro un cassetto un po' di pezzi, cioè un po' di idee, un po' di cose, ecco, no? E diciamo, ci siamo sempre detti, dai, un giorno, quando avremo tempo, quando avremo modo, apriremo quel cassetto e vedremo un po' che cosa ci sarà dentro. Certo. E poi c'è stata l'occasione per farlo. In realtà, Gilles, di tutto quello che c'era dentro il cassetto non è rimasto tantissimo, no? Sì. Perché poi alla fine, cioè, poi ritorni un po' sulle cose, perché poi ti trovi comunque tu cambiato rispetto a quello che avevi fatto, certo, all'epoca. Certo. Però alcune cose in realtà sono rimaste, soprattutto due, tre cose. Una è quella che ieri al telefono, quando abbiamo parlato io e te, tu mi hai citato appunto il tema del trucco, che hai detto, ah, questa qua è una cosa che mi piace tanto, certo, no, una cosa... Quello è uno dei pezzi che fa parte di quel periodo lì, ecco, certo, quindi certo. Però poi sono state scritte cose nuove, perché poi comunque sei alla ricerca sempre di altre cose, quindi il disco, diciamo che non è nato 10 anni fa, il disco è nato 1 anno e mezzo fa, quando abbiamo detto, dai, proviamo a fare qualcosa insieme, certo, insieme, ecco, certo. diamoci un obiettivo. Allora, io leggendo un po' la vostra storia, vorrei a questo punto ringraziare due persone, Fabrizio Pagella e tutti quelli del Teatro Paravento di Locarno, perché tramite loro in pratica sono nati poi Francisco. Sì, esatto, cioè, diciamo che Fabrizio, che è un attore torinese col quale abbiamo collaborato per diversi progetti quando, come Gaglio Mundi, avevamo bisogno di una voce narrante, diciamo che la persona che in qualche modo ci ha indicato un po' la strada, no? Cioè, colui che ci ha raccontato un po' di storie verso le quali potevamo andare, con andare a scoprire, a catturare. Quindi diciamo lì è stato veramente un po' la scintilla che ha fatto nascere tutto. Mentre invece il Teatro Paravento di Locarno, piccolo teatro pieno di belle idee, di belle persone, di entusiasmi, che ci hanno permesso, che ci hanno dato un po' di spazi, ci hanno dato un po' una mano, ci hanno fatto un po' provare le nostre musiche quando avevamo bisogno di avere un piccolo pubblico che ci ascoltasse, cioè sono coloro che ci hanno in qualche modo battezzato. Quindi assolutamente sono due persone che vanno giustamente ringraziate, due entità, ecco. Certo, che poi Fabrizio Pagella, se non sbaglio, è la voce anche della chiusura, in pratica. Assolutamente, assolutamente, questa qua è una cosa che ci tenevamo a fare, quindi gli avevo detto, guarda, siccome sei tu la persona che diciamo che ci ha condotto fino qua, è giusto che sei tu colui che recita le ultime parole, quelle che vengono nel disco vengono chiamate come sipario, cioè chiudono un po' il discorso Francisco Trucco Blues, ecco, chiudono un po' questa parentesi qua. Allora Fabrizio, corro perché recupero un po' il tempo perso di prima. Io volevo che mi dicessi due parole su Madre Ricorda, che è il prossimo brano che andiamo ad ascoltare. Sì, Madre Ricorda, vabbè, è il pezzo col quale diciamo ci siamo voluti presentare, non è nient'altro che una sorta di... Allora, capita che nella vita tutti quanti abbiamo bisogno, cioè vorremmo più che altro scrivere un finale diverso a storie che abbiamo vissuto e che magari ci hanno lasciato un po' l'amaro in bocca. Purtroppo la vita, tu sai bene che non ci permette questa, certo, questa possibilità, perché non è così, perché la realtà dei fatti ci intorno poi a quello che è il nostro destino. Invece nelle canzoni questa cosa qua è diciamo che si rende possibile. Quindi Madre Ricorda parla un po' di questo fatto, cioè parla di una vicenda molto amara, molto cruda, molto, molto triste, e se vuoi poi ti posso anche dire da dove nasce, però ne parliamo dopo. Sì, però riscrive un po' il finale di questa vicenda e la svolta, diciamo, un po' in positivo, ecco, rende tutto meno, meno drammatico, un po' più dolce. Bene, allora ascoltiamoci, entriamo nella musica dei Francisco con Madre Ricorda. Settembre passerà, su questa gente di frontiera, tu un vestito nuovo avrai, prima che faccia sera, a sé che bel fiore sarai. Radio Cooperativa. Fabrizio? Eccoci. Ecco, tu non lo sai perché non ci stai ascoltando in questo momento perché è occupatissimo, ma nel sottofondo, lo sentirai poi quando avrai modo di riascoltare la vostra intervista, ho Neon e Bolero per te. Quindi completamente Francisco. Wow. Allora, ascoltando questa canzone, inevitabilmente mi fa ritornare un po' a qualche anno fa, al periodo in cui ascoltavo Loyal Tomare. Era un bel po' di tempo che non sentivo queste voci, queste sonorità. Certo. Allora, sì, dimmi. No, assolutamente, sì. Ci si pesca un po' da tutto quel mondo lì, ecco. Certo. Volevi aggiungermi qualcosa su questa canzone? No, l'unica cosa appunto che appunto, cioè, parla cioè come probabilmente, cioè sicuramente tu avrai intuito e spero anche altri, cioè parla anche un po' del fatto che veramente siamo tutti appesi un po', cioè le nostre fortune e le nostre sfortune purtroppo spesso non siamo nemmeno noi a poterle determinare, ma all'atto della nascita ci troviamo tutti di fronte comunque a una realtà che tra virgolette ci condanna un po', no? E quindi questa canzone qua è stata scritta proprio in un momento che questa cosa qua era molto evidente, cioè nasce un po', non so se ricordi, quel bambino siriano trovato morto, certo, sulle spiagge turche, certo, cioè da questa roba proprio folle. Io sono padre di una bambina, no? E in quel momento lì vedi con la figlia e dici cavoli, ma come è possibile che certe cose possano accadere, no? Cioè, certo, è folle tutto questo, no? Cioè, certo, vuol dire che le fortune, cioè poi stai bene, no? Si fanno mille discorsi, mille cose, si strumentalizza tutto, però poi la realtà dei fatti è quella lì, no? Che certo, purtroppo spesso siamo veramente vittime un po' della condizione nella quale tutti, cioè ognuno nasce, no? E ci portiamo dietro quella condizione per tutta la vita. Questa canzone qua, diciamo, come dicevo, in qualche modo risolleva un po' le sorti di questa disgrazia qua, no? Però ricorda poi sul finale un po' a tutti quanti il fatto che comunque poi alla fine siamo tutti figli di una stessa madre, cioè di una stessa entità che ci rende esseri umani tutti quanti, no? E quindi in un'epoca dove effettivamente c'è molta aggressività, c'è un'epoca un po' strana, no? Sembra, non so, c'è poca umanità, c'è pienamente d'accordo. E quindi ecco, ricordare il fatto che comunque si sta sempre, cioè siamo esseri umani, quindi viviamo di emozioni positive e negative, ma non dimentichiamo che siamo comunque esseri che hanno delle emozioni, hanno un cuore, hanno capito? Non voglio poi andare in altri discorsi che sono più grandi di noi. Oltretutto, però, se qualcuno, io ho avuto la fortuna di avere il vostro album. E una delle cose, te l'ho anche detto, che mi ha colpito, oltre per il contenuto musicale, anche per i testi, veramente una musica, posso dirlo, musica d'autore, mi permetti? Sì, certo, assolutamente. Questo vale per te, per il Francisco, per te e per Fabio, per tutti e tre. Certo, assolutamente. Perché Francisco? Perché questo nome Francisco? Ma guarda, Francisco era, cioè, appunto, a un certo punto io, Fabio, eravamo lì alla ricerca di un nome e non sapevamo veramente dove andare. Sai, perché tu il nome, quando cerchi di darti un nome, diventa un po' difficile. Io quello che in qualche modo desideravo era il fatto che fosse un nome che fosse pronunciabile in diverse lingue, ecco, che non avesse comunque una connotazione geografica definita, no? Mm-hmm. E quindi a un certo punto, vabbè, è venuto fuori il nome di un cantante brasiliano che si chiama Chico Buarque, però poi in realtà lui è Francisco e poi altri mille nomi Buarque. E quindi a me quando è venuto fuori questo nome, un giorno ho detto, sai quando proprio figuri il nome Francisco e dici, ma sì, ma Francisco in realtà suona in tante lingue, no? Mm-hmm. Ovviamente è un nome neolatino, però spendibile in quasi tutte le lingue, chiunque capisce. Quindi questo è il senso. Certo. E io volevo anche parlare un attimo del video, perché sì, il video è altrettanto bello, vi invito ad andarlo a vedere in YouTube, che racconta in pratica di una fanciulla, di una ballerina, vogliamo fare anche il nome, Elisa Rolfo. Certo. Elisa Rolfo, esatto. Parlaci dell'idea di questo video, Fabrizio. Allora, il video, allora, lo dico subito, è fatto da un videomaker nostro amico, che si chiama Ivano Antonazzo. L'idea di questo video qua nasce dal fatto, allora, questa è un po' cioè io non so, non mi piacciono tanto i video musicali quando vedi il musicista, l'artista, quello che è, con un po' strumento in mano, o comunque quando vedi comunque l'artista, cioè a protagonista, perché, boh, questa è una mia idea, secondo me il video dovrebbe cercare di raccontare qualcos'altro, no? Cercare di andare un po' oltre il fatto di sponsorizzare una faccia piuttosto che un nome. E quindi il tentativo in questo caso qua è stato quello di portare sullo schermo la grazia di una ballerina, che è una ragazza giovane, perché poi noi stiamo parlando di una ragazza molto giovane, che ha 14 anni, no? Quindi comunque una ragazza all'interno di un istituto scolastico, quindi comunque con questo corridoio che, diciamo, è un po' un ambiente meno, come dire, un po' inusuale, meno dolce, meno laccato, meno... L'idea è appunto proprio il fatto di contrapporre comunque la bellezza, cioè il gesto, la delicatezza di questa persona qua, a quello che poi in realtà è tutto ciò che ti circonda, no? E ovviamente questa cosa qui è trasportabile poi nella realtà che abbiamo tutti noi, cioè noi siamo persone che spesso in qualche modo la nostra sensibilità fa un po' a botte con tutto quello che ci circonda, no? Cioè spesso soffriamo comunque di tutto quello che ci circonda, abbiamo a che fare, dobbiamo confrontarci quotidianamente con un sacco di cose delle quali fare il meno. Certo. E diciamo che il video un po' vuole nel suo, cioè, non so poi quanto ci riesca, però vuole creare un po' quel tipo di situazione, appunto questa ragazza molto carina, molto delicata, molto dolce, che fa comunque un gesto di danza classica, perché lei è una ballerina reale, no? Certo. Però in un ambiente circostante che comunque in qualche modo è un po' austero, cioè un po' freddo, un po', no, un po' rigido. Ecco, un po' come questo... il mondo che la circonda, no? Esatto, sì, esatto. E finisce... E appunto finisce con lei che bussa questa porta e, diciamo, entra in questa stanza che metaforicamente sarebbe un po' l'affrontare la vita, no? Cioè, certo. Un po'... E poi lì ognuno la veda a modo suo, poi. Assolutamente, che è quello che poi, diciamo, che noi ci siamo immaginati a questo scenario qua. Poi se qualcuno riesce a trovare un'interpretazione diversa, ben venga, ecco, meglio anzi. Fabrizio, io direi che passiamo al prossimo brano, che dici? Sì, sì, sì. Io vorrei proporre Jamin, se sei d'accordo. Sì, assolutamente. Due parole velocissime su Jamin, che ci racconti? Jamin è una pallina colorata, immagina proprio quelle palline che rimbalzano in modo forsennato, che viene lanciata per il mondo e va in giro. E va in giro in modo molto casuale a toccare la coscienza, ecco, in qualche modo di chi è predisposto a farsela toccare. Sì. Poi se non ti dico un po' altre cose, ecco. Però se vogliamo ascoltarla volentieri. Sì, sì, direi di sì. Ascoltiamoci Jamin dei Francisco. Qualcosa di non detto, la vita è una sfida che qui corre in salita e brucia le vene di questa terra latina. Sono Jamin, sono Jamin, rimbalzo e rimbalzerò, sono Jamin, fai un passo. Radio Cooperativa. Allora Fabrizio, abbiamo ascoltato Jamin. Io volevo però anche ricordare una cosa importante. A proposito, prima mi dicevi che sei stato per tanti anni chitarrista di Ivano Fossati. Sì. Anche con voi ha partecipato comunque un chitarrista veramente di grandissima esperienza, che è Guido Guglielminetti, che suona con, con De Gregori, giusto? Con De Gregori, sì. Lui è lo storico bassista e produttore di De Gregori, il quale ha una carriera che parte dal mio canto libero di bassisti, quindi voglio dire, è tutto detto, ecco, potremmo chiudere qua, no? Cioè per, certo, passando per Nina e Mimì, piuttosto che la Bertè, Ivano Fossati, De Gregori, cioè veramente una carriera fantastica. Certo. E con Guido siamo amici da tantissimi anni. E quindi niente, quindi lui ci ha omaggiato di due pezzi e ci ha regalato la sua presenza, ecco. Chissà mai, visto che abbiamo avuto Marco Barusso come chitarrista, questa sera abbiamo avuto te, Fabrizio, come chitarrista, chissà mai se mi metterai in contatto con Guglielminetti, sarebbe... Molto volentieri, se vuoi fatta, ecco. Guarda, ti ringrazio perché sarebbe un grandissimo onore. Tra l'altro poi avete anche Lillo Fossati che suona con voi. Sì, esatto. Lillo, il figlio di Ivano, batterista veramente... Lo dico, vabbè, noi siamo molti in amicizia, quindi voglio dire, sembra quasi sponsorizzare una roba, no? Però in realtà è veramente una persona, è un musicista bravissimo, è una persona fantastica, quindi anche lui è stata una di quelle persone imprescindibili, ecco, che dovevano in qualche modo intervenire, perché poi in realtà all'interno di questo disco qua, è vero, cioè, ci sono personaggi che hanno una storia musicale importante e che ci hanno regalato la loro partecipazione, ed è stato bellissimo, però ci sono anche personaggi come Injamino, c'è questa voce spagnola che a un certo punto interviene, no? Che è un ragazzo che si chiama Claudio Di Giammato, che attualmente vive a Pescara. Lui è un ragazzo italiano, ma figlio di immigrati in Venezuela. Lui ha vissuto tutta la vita in Venezuela e da qualche anno è rientrato qua in Italia. Noi siamo diventati amici per tutta una serie di motivi, no? Però è una persona che ha la passione del canto, non ha una storia musicale alle spalle, certo. Però è una persona bellissima, e quindi anche lui, cioè quando è venuta fuori appunto l'idea di Giamino, ho detto no, ci deve essere Claudio che ci fa un piccolo intervento, perché lui è veramente entusiasmo, cioè veramente è stato bello averlo dentro, no? Quindi Ed è bello avere poter intervistare persone come voi che sono dentro la musica a pieno titolo. Sì. Ecco, perché qui passano anche tanti musicisti, tanta musica emergente, ma passa anche artisti come voi che possono dare un qualcosa anche di in più a questi ragazzi che ascoltano questo programma. E che sarebbe bellissimo. È dura, ma ce la si può fare. Magari speriamo, sì. Magari ecco, il mio sogno è sempre di invitare qui in studio persone come voi e poter invitare anche uno di questi ragazzi che fa musica emergente ad entrare in contatto diretto con voi. Certo. Ecco, allora Fabrizio, io direi questo, sì? Parliamo un po' di Turco Blues, allora dove io immagino che il blues, ho sentito il disco, non c'è qualcosa che possa andare nel blues, però sicuramente sarà qualcosa che è legato alla musica, ma è il turco? Allora, blues è soltanto un'attitudine, no? Cioè un'attitudine verso la vita, in generale, no? Quindi un po' quella malinconia che ci accompagna le giornate, però anche quel senso un po' di rivalsa, anche di gioco, anche di voglia di no, comunque poi alla fine di dare il calcio alla latina e dire ma sì, ma ce ne frega, no? Il blues è un po' a quella roba lì, sì. Mentre invece il trucco in realtà è qua, rientra in gioco Fabrizio Pagella, perché fu Pagella a raccontarti di questo gioco di carte che è un gioco di carte sudamericano, nato più che altro e viene giocato in Argentina soprattutto, ma un po' in tutto Sud America, no? Mm-hmm. E allora che cosa capitava? Lui ci aveva raccontato di questa storia di migranti italiani di inizio secolo, ovviamente secolo scorso, che andavano nelle Americhe in cerca di fortuna, e tanti di questi qua tornavano a casa con niente in tasca, no? Soltanto con poche lire, con tanti rimpianti, tanti rimorsi e finiva lì. C'era un bar nel basso Alessandrino, mm-hmm, dove queste persone qua si ritrovavano a giocare questo gioco di carte che avevano importato dall'Argentina, no? Sì. E la cosa curiosa è che mentre giocavano a questo gioco tornavano a parlare spagnolo, quindi comunque tornavano in qualche modo loro con la testa. È vero che erano ad Alessandria, però in realtà loro tornavano nell'Argentina. E quando ci racconto questa storia, non lo so, a me era una storia che mi emozionava, no? A pensare a queste persone dopo tanti anni che giocavano ancora questa partita di carte. Cioè, era una roba. E quindi quando abbiamo fatto questo al lavoro qua ci è piaciuto un po' unire queste due anime, no? Questa qua del gioco delle carte. E l'atmosfera blues, un po' il blues, ecco, sì. Un po', cioè, unire queste due cose qua, e da questo fatto viene fuori il nome Trucco Blues. Pensa, Fabrizio, che andando in cerca un po', perché poi anch'io sono così come tanti altri, mi piace conoscere, perché poi la musica ti dà sempre gli stimoli per approfondire determinati argomenti, no? Allora sono andato a vedere il trucco e è venuto fuori un po' di robe che tra l'altro ho scoperto, non so se tu lo sapevi, ma che esiste anche un campionato mondiale di trucco. Sì, perché ma poi tra l'altro, come guarda Gilles, come tante cose sudamericane, no? Cioè è un gioco popolare, ma è un gioco estremamente difficile, cioè non è un gioco non è la scala 40 o ruba mazzetto, no? Perché io poi ho provato ad approcciarmi a questo gioco, io sono ignorante in materia, cioè io non riesco nemmeno, cioè le carte non so nemmeno come siano fatte, però ho provato, ma è difficilissimo, cioè sì, pieno di regole, veramente assomiglia molto di più al bridge, mi hanno detto, che non è un gioco semplice, però sono quei giochi che in Sud America ha un po' questa caratteristica qua, no? Certo. Cioè loro rendono popolari delle cose che in realtà sono, guarda, non lo so, la bossa piuttosto che il tango, cioè, tutte comunque cose difficili da assimilare, che però per loro sono popolari, naturali, cioè certo, tutti fanno. È curioso. E pensare che l'ultimo mondiale, tra l'altro, è stato a Piacenza, in Emilia-Romagna. I campioni. No, ecco, questo mi mancava. Ecco, a Piacenza, in Emilia-Romagna, e ti dico che i campioni sono Giorgio Cremona e Roberto Cerrucchi. Ma penso, ecco, questo mi mancava, fantastico. Questo è il trucco, c'è anche appunto un campionato mondiale, bellissimo. Ma pensa un po', e tra l'altro a Piacenza, che mi dice anche una cosa, che è una città che io frequento per lavoro e oramai per amicizia da un po' di anni, ho diversi amici con i quali faccio delle cose, proprio è Piacenza, però loro non mi hanno mai detto niente, ecco, i piacentini. Allora, me lo dici tu. Ecco, magari questa è l'informazione che ho, poi magari, ma sì, penso sia corretta, da quello che so. Allora, io vorrei presentare il prossimo brano, che in pratica ha il titolo in inglese, ma è cantata praticamente in italiano, che coinvolge un po' tanti musicisti, che è This Train Goes By. Perdona il mio inglese, che lo dico sempre, ma non è perfetto, certo. Parlami un po' di questa canzone e poi la andiamo a ascoltare. Allora, This Train Goes By è una festa, cioè il clima è di festa. Allora, dico subito le persone che ci accompagnano in questo pezzo, che è un gruppo svizzero, cioè un gruppo ticinese che si chiama The Bad Book, mm-hmm, è un gruppo che in Ticino è molto conosciuto, è molto seguito, è molto apprezzato. Un gruppo nel quale Fabio suona in pianta, cioè sta stabilmente da un po' di anni, e io diciamo che sono oramai quasi uno zio acquisito, cioè comunque loro mi chiamano spesso a fare qualcosa insieme o sui dischi oppure dal vivo, ed è un gruppo di persone molto piacevoli, molto belle, molto e quindi niente, quindi questo qua è un pezzo che ha un clima festaiolo e ci sembrava giusto, siccome loro hanno questa caratteristica, hanno questa prerogativa, ci sembrava giusto chiamare loro. C'è anche Guido Guglielminetti che suona al basso anche in questo pezzo qua. Niente, è un pezzo che poi alla fine che ci dice che poi in fin dei conti, dai, che poi nella vita tutto un po' riparte, no? Che anche di fronte a un amore finito male, piuttosto che una vicenda finita male, poi alla fine noi abbiamo un motore dentro, che noi esseri umani abbiamo un motore che poi alla fine ci fa in qualche modo venire fuori e dalle difficoltà ci fa andare avanti, no? E questo è bello, questo qua secondo me è una grossissima fortuna che l'essere umano ha. Purtroppo non sempre questa cosa va come dovrebbe andare, però diciamo che bisogna anche un po' affidarsi e fidarsi un po' quello che siamo, no? Più che dei ragionamenti, che dei pensieri, che delle ideologie, magari ogni tanto mettere un po' tutto da parte e dire ma fidiamoci un po' di quello che abbiamo dentro. E parla un po' di questo anche in modo molto semplice, perché è un pezzo estremamente semplice che Ma molto bello. Racconta un po' questo. Belle sonorità anche a lei. Allora, This Train Goes By, sono i Francisco. Con Alberto Prisco. tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Allora Fabrizio, sono 12 tracce di cui 7 cantate, 3 con 3 recitate e 3 strumentali. Io trovo che in questo CD ci sia una bella mescolanza di suoni di chitarra, fisarmonica, piano, e anche qui abbiamo sentito anche altri strumenti. Sì. Ci sono però, come ho detto, dei testi di rara bellezza in questi periodi. Chi arrangia la musica e chi appartiene la penna? Questo è un lavoro corale, quindi siamo io e Fabio che ci occupiamo di arrangiare quello che poi scriviamo, mentre invece le idee in qualche modo sono riconducibili, qualcuno diciamo un po' più a me e qualcuno un po' più verso qualcuno un po' più sua. Ecco, su questa cosa qua siamo abbastanza, mettiamo sopra il tavolo quello che abbiamo, quelle che sono le nostre sensazioni, e poi cerchiamo di trovare una via per realizzarle. Certo. Quindi questo è quello che facciamo. Senti, per me, Fabrizio, per me ascoltare musica e cercare il piacere un po' di emozionarmi, no? come sì. Tutti. Chiudi gli occhi e ascolti questa musica e ti dà le sue emozioni. Come è successo, tra l'altro, con Turco Blues, appunto, con Trucco Blues, sì. Scusami, Trucco. Perdonami perché mi viene sempre in mente il turco, è una parola che si avvicina molto. E per te ti chiedo che significato ha fare musica, che non è poi una domanda così scontata. Allora, io dovrei cercare di rivedermi Fabrizio ragazzino, cioè Fabrizio tredicenne, quando sono andato dai miei genitori e gli ho detto voglio avere una chitarra, no? E loro mi hanno detto per farne cose, e io dicevo ma penso di per poterla suonare, no? E ti dico Gilles, cioè all'epoca per me, ed è stata per tantissimi anni, è stata veramente l'ancora di cioè tutto ruotava attorno a questa cosa qua, cioè al fatto di immaginarsi in qualche modo musicista, cioè di cercare di imparare il più possibile. Conta che io sono una persona che viene fuori, io adesso parlo di me perché sta parlando io, e quindi cioè porto quella che è la mia esperienza. Io non ho fatto studi accademici, diciamo sono quello che si potrebbe definire un autodidatta, anche se poi in realtà negli anni ho cercato di imparare da un po' di persone con le quali ho potuto lavorare, no? Però tutto nasce comunque da una passione che non sai nemmeno perché ti arrivi a questa roba qua, e secondo me è una grandissima fortuna che questa cosa qua nel mio caso sia arrivata. E poi negli anni, nell'età un po' più adulta, ovviamente inizi a cercare di dire ma può diventare questa passione può diventare un lavoro, può diventare qualcosa che assomigli a un lavoro, e lì entrano in gioco tutte le altre questioni, che poi vengono veicolate attraverso la fortuna di un incontro positivo, piuttosto che probabilmente anche di un talento che riesce in qualche modo ad esprimere, a differenza di altri che magari non ne hanno avuto occasione. E quindi niente, quindi arrivi poi a un certo punto che questa cosa qua si trasforma improvvisamente in un lavoro, con tutte le dinamiche del lavoro. Però io vorrei sempre tornare un po' a quello che è stato all'inizio, quindi comunque la musica, se tu mi chiedi che cos'è, io ti dico è una grandissima passione, cioè quella cosa che veramente ti metti in ascolto per stare meglio, per passare un momento, per condividere una gioia, per tutte queste, è proprio vita, è vita, è la tua vita, cioè è quello che fai tutti i giorni e che non vedi l'ora di poter tornare a fare, è questa cosa qui. Quindi per me la musica è stata, perché ti dico, perché poi c'è è tanta gioia, ma anche tanto anche comunque un percorso di crescita, no? Perché spesso comunque vai in conflitto con quello che fai, non ti senti adeguato, non ti senti all'altezza, quindi questa cosa qua però comunque è un qualcosa che ti permette di crescere ancora, di migliorare, cioè è un percorso di vita, un percorso di crescita che tu fai insieme alla musica, ecco. La tua vita diventa quella cosa lì. Allora, Fabrizio, quindi per me la musica è quella roba lì. Il tempo mi corre, Fabrizio, e io volevo fare ascoltare appunto un brano strumentale che io trovo bellissimo, che ha la particolarità che è stato suonato con un piano del 1922, mi confermi? Sì, con lo stesso piano col quale Fabio... Allora, questo qua è un pezzo di Fabio. Stiamo parlando del brano La sposa bambina. Ricordatevelo, esatto. Perché è veramente bello. Sì, esatto. E questo qua è un pezzo che io una volta mi trovavo a casa di Fabio, e Fabio a un certo punto mi dice: ah, Fabio, ti faccio sentire una melodia che ho, che secondo me potrebbe andare bene. E si mette a suonarla su questo pianoforte, che poi abbiamo deciso che avrebbe dovuto proprio essere quel piano a suonare quel pezzo lì, e mi ha fatto sentire questo pezzo che secondo me è veramente adesso sembra sposare una causa, però voglio dire, però secondo me è veramente di grandissimo livello, un grandissimo pezzo. Non è che sposi la causa, adesso avremo modo di farlo ascoltare a un po' chi è sintonizzato con noi. E vi rendete conto di cosa stiamo parlando. Allora, io lo manderei in onda e poi ritorniamo qui con te, Fabrizio, ok? Sì. Allora, sì. La sposa bambina, loro sono i Francisco. Eccoci qua, Fabrizio. Io direi che è proprio così, no? Io sono proprio in chiusura, devo correre, però alcune domande me le tengo per la prossima volta. Certo. Perché vi voglio nuovamente, o in diretta telefonica qui in studio, però vi voglio nuovamente qui a Radio Cooperativa. Ecco, io anche adesso ero qui in studio, ti dico la verità, ho chiuso gli occhi, perché come dite voi, il vostro lavoro è un viaggio. E io ho chiuso gli occhi e veramente la sensazione di un viaggio. Poi ognuno si faccia portare dove vuole, però veramente certo, è questa certo. L'idea che dà questa canzone. Certo. Allora, Fabrizio, io cosa devo dirvi? Io vi ringrazio, veramente vi ringrazio di essere stati qui con noi. Come dicevo, altre cose avrei da chiedervi, comunque sicuramente ripeteremo la cosa. E vorrei chiudere con questa canzone che si chiama Il tema del trucco, che sì. Voglio, a parte che è bellissima, la voce è quella di Fabrizio Pagella. Esatto. Ecco, e in pratica voglio rappresentarla così, come la chiusura di questa sera, immaginare proprio anche il vostro spettacolo, dove voi questa sera siete stati con noi, avete fatto il vostro spettacolo e chiudete il vostro sipario. Fantastico, bene. Quindi ecco, Radio Cooperativa, tutta Radio Cooperativa, è veramente orgogliosa di avervi ospitato. Io ringrazio te, Fabrizio, senza dimenticare Fabio Mago Martino, speriamo certo. sia all'ascolto, che comunque gli faremo avere l'intervista. E certo. non mi resta altro che dirti una buona serata ai Francisco, posso dire così? Grazie, assolutamente. Sono io che ringrazio te, Gile, dello spazio che ci hai concesso, della passione che ci hai messo, sì. che anche questa non è una cosa così scontata, è stato veramente un piacere incontrarti. Ti ringrazio. Reale. Ti ringrazio, volevo ringraziare soprattutto anche una persona, non voglio dimenticarmi, Luca Trambusti. Assolutamente, grazie a Luca che ci ha fatto incontrare. Sicuramente sì. Grazie Luca, un abbraccio, sei stato veramente fantastico anche te, come tanti altri che si occupano di musica e ci mettono in collegamento con questi grandi artisti. Volevo dirti una cosa però, Fabrizio, non sì. voglio dimenticarmela, visto che hai lavorato con Ivano Fossati, voglio sì. chiudere con te con una canzone che per me è fantastica, ne ha fatte tantissime di belle, però C'è tempo è una canzone fantastica, e visto sì. che i vostri testi richiamano tante cose, tanti sogni, tante speranze al mondo che vorrebbe cambiare, voglio salutarti con questa frase di Ivano Fossati dalla sua canzone C'è tempo, che dice: dicono che c'è un tempo per seminare e un tempo più lungo per aspettare, io dico, dice Fossati, che c'era un tempo sognato che bisognava sognare. Tu penso che la conosci questa canzone? Oh, no? certo. Sì, sì, no, l'ho suonata tante volte e sono d'accordo con te. Detto, vabbè, Ivano, cioè, è inutile che dica, io voglio dire, stiamo parlando veramente di un monumento, secondo me, della canzone italiana, e quando tocca certe corde con questi pezzi, secondo me è un po' più niente, cioè, meraviglioso, ecco, meraviglioso, sì. meraviglioso. Tu lo sai quante volte suonando questo pezzo qua C'è tempo avevo il groppo in gola a sentirli cantare quelle parole lì, nonostante le conosca a memoria, ma è comunque è una roba che tocca veramente le corde esatto. di chiunque. Cioè, esatto, è quello che capita anche a me quando ascolto questa canzone di Ivano Fossati. Certo. Vabbè, allora... Vabbè. Fabrizio, io ti ringrazio, io ti saluto, poi saluto un po' gli ascoltatori e mando appunto il tema del trucco. Del trucco. Ok? Dai. Fabrizio, ti ringrazio. Un saluto a tutto, sono ciao. Io che ringrazio te. Ciao, Gino. Ciao. Ecco, allora io vi lascio con questo sipario, con questa chiusura di sipario di Francisco. Ci sentiamo giovedì prossimo. Buona vita a tutti, carissimi. Ciao a tutti da Gil Facchinelli. Eccoci qua. Volevamo raccontare una storia di quelle che i bambini ascoltano in silenzio, ad occhi aperti. Esistono luoghi e persone davvero meravigliose. Esistono i sentimenti e la speranza, che sono la nostra fortuna rimasta. Il viaggio di Francisco domani proseguirà su questo prato di ricchezze e miserie. L'orchestra ha suonato. Ora ripone gli strumenti e abbandona il palcoscenico. C'è vento. Quest'ora della notte c'è una strada da viaggiare. Rendetevi liberi, sempre, più che potete.